Allora, dal corteo di Roma, Turpignattara, di cui appunto stavi parlando tu, passiamo a parlare del corteo di sabato a Macerata. Siamo riusciti a metterci in contatto con un compagno da Macerata che saluto all'altra parte del telefono e invito tra l'altro gli altri componenti, insomma i compagni che stavano qui, se vogliono intervenire. Ci senti? Ciao a tutti. Eccoti. Allora, noi abbiamo in apertura di questo spazio di riflessione da Radio Onda Rossa, abbiamo parlato del comunicato che è uscito qualche ora fa, comunicato congiunto Ampi, CGL, Libera e Arci, però insomma di cui ci parlerai anche tu, ma insomma il corteo è confermato ed è questo quello che ci importa. Dici un po' come stanno andando questi momenti di organizzazione, ovviamente immagino la dialettica molto aspra che ci può essere stata in questi momenti. Ciao a tutti ancora. Intanto, come immaginerete, appunto sono abbastanza complicati, perché comunque tutto quello che si sta scaricando in questi ultimi giorni in questa città, no, in qualche modo scavalca, no, ogni ne abbiamo già, no, avuto modo di sottolineare la estrema gravità e, no, e l'inedito di quanto è accaduto, no, il salto di qualità, il cambio di paradigma rispetto al quale subito, no, ci ha portato, no, alla decisione, no, di lanciare immediatamente una mobilitazione tutte le adesioni, tutta la mobilitazione che in tutta Italia e oltre si è creata sono una conferma di una diffusa e profonda consapevolezza di quanto accaduto e della necessità di una risposta ampia, collettiva e determinata. Esatto, sull'atteggiamento di Ampi, CGL e compagnia cantante, che vai. Ci arrivo subito. Allora, il problema appunto che è stata la produzione della manifestazione, è evidente che, no, in qualche modo l'appello alla mobilitazione è stato lanciato nelle primissime ore. Immaginate come non sia stato semplice farlo, insomma, no, assumersi quella responsabilità dopo una veloce riunione delle realtà regionali in videoconferenza, quando ancora praticamente non era nemmeno concluso l'emergenza fatto da assedio da parte delle forze dell'ordine. Quindi è chiaro che c'è l'evidenza, c'è una materialità, c'è una realtà di un percorso di costruzione che travalica la città, questa regione, ma travalica probabilmente l'intero paese. È chiaro che il tentativo che è stato fatto dalle organizzazioni, ma chiaramente dalla spinta nazionale, chiaramente dalle segreterie, dalla presidenza nazionale delle grandi organizzazioni che poi hanno diffuso tanto di oggi, era quello di cercare in qualche modo di la gravità, diciamo, dell'atteggiamento è stata quella di quasi ignorare quanto già si stava producendo. Anche un altro elemento grave è stato quello poi chiaramente che abbiamo potuto toccare con mano proprio nella relazione che abbiamo avuto qua in città, l'assoluto scavalcare della dimensione locale di ogni riferimento associativo e organizzativo. Questo è il dato. La nota della stampa di oggi ci parla dell'imposizione dei diktat organizzativi dal nazionale all'imposto a livello locale. E sappiamo, insomma, no, da questo punto di vista come l'ambito della sinistra, della classica, quella che era la classica sinistra di rappresentanza e sindacale, sappiamo quindi che tutto, no, rispetto a questa a quanto è accaduto, sappiamo, no, le influenze e le pressioni che ha cascata, no, dal PD al resto dei partiti della derivazione di sinistra, i sindacati, il rapporto col sindacato, comunque purtroppo alcune influenze rispetto alla dirigenza nazionale Ampi. Quindi tutto quello che è accaduto, tutto quello che in qualche modo sintetizza quella nota, sono i diktat delle organizzazioni nazionali che cercano di rifiutare quanto sta accadendo e appunto quasi come se non ci fosse, perché avete visto la nota, non è che parla del fatto che non saranno presenti quelle organizzazioni, ma parla di annullamento della manifestazione. Quindi da questo punto di vista chiaramente però non si accetta in alcun modo, no, questo tipo. Quindi un'arroganza senza limiti. Arroganza senza limiti che non si accetta, anche perché e rispetto alla quale non cadiamo nemmeno però nella trappola della, no, della contrapposizione, perché poi basta se fate un giro sulla rete, voglio dire, bastano i commenti spontanei di centinaia di persone ai post che diffondono questa nota, e soprattutto non vogliamo la contrapposizione, perché in realtà la situazione in città è totalmente diversa. Le stesse strutture locali vivono in prima persona, sono le prime vittime di questi diktat. Però ecco, poi avete visto, questa nota viene giustificata dalla presa di posizione del sindaco, anche qui bravissimo, perché il sindaco invita a fermare tutte le manifestazioni, invita la gente a stare a casa, a non uscire di casa, quindi in qualche modo quasi incrementa un clima di terrore e di paura creato ad arte in parte. Sì, che anche lì non esiste ancora in città questo clima di paura. È chiaro che la città lo percepisce per la presenza massiccia delle forze dell'ordine, per la blindatura, ma non ci sono altri elementi, non c'erano nessun altro elemento anche dal punto di vista dell'attivazione sociale rispetto alla giornata di sabato. Poi è chiaro che non devo neanche commentare il fatto che come si possa paragonare e mettere sullo stesso piano le iniziative neofasciste che vogliono rivendicare quanto l'attacco terroristico e la manifestazione di sabato di condanna e di solidarietà alle vittime. Quindi questo purtroppo, chiaramente le gravità delle dichiarazioni del sindaco si commentano da sole, e questo ha dato l'alibi e la giustificazione alla nota delle organizzazioni nazionali, PCE, Ampi, Arci. Però da questo punto di vista quello che ci teniamo, no, ci teniamo a rassicurare tutti i compagni e tutte le realtà che generosamente stanno costruendo le iniziative di avvicinamento, la partecipazione, è tutto confermato, è tutto purtroppo giocato su un piano di rappresentazione mediatica e di sciacallaggio politico, pesante sciacallaggio politico, ma nonostante questo qua si tiene duro, è tutto confermato, quindi la grande giornata di mobilitazione lanciata appunto dai movimenti contro il fascismo e il razzismo si terrà nei termini in cui l'abbiamo annunciato, quindi una grande manifestazione che in questo momento è fondamentale, no? Lavorare su un'enorme partecipazione, su una risposta più diffusa, ampia, e questo è il dato, e su questo insomma ci teniamo a segnalare tutti e a confermare. A questo punto ti chiederei di ripetere orario e luogo di appuntamento per la manifestazione di sabato. Appunto, ciò che ha costato il fatto che le dichiarazioni ci sono proprio quando i compagni erano in comune. Aspetta, che non ti abbiamo sentito bene, c'è un po' intermittenza nella comunicazione, sì, quindi scusate, poi se puoi ripetere. Sì. No, che l'idiozia è stata anche che le dichiarazioni del sindaco sono uscite quando proprio i compagni erano in comune a definire il percorso e le questioni tecniche. Quindi comunque confermiamo l'appuntamento alla stazione FS di Macerata alle 14.30 per il concentramento. È chiaro che adesso noi struttureremo una segreteria organizzativa per facilitare l'arrivo e dare tutte le informazioni logistiche, e chiaramente se ci fossero variazioni, perché immaginate che con una città piccola come questa è veramente anche solo difficile immaginare dove poter far prendere realtà la manifestazione, verranno comunicate, ma al momento è tutto confermato. Senti, dal punto di vista della polizia, delle truppe di Minniti, cioè, insomma, ci dobbiamo aspettare un grosso dispiegamento. Guarda, il dato di fondo è che lo stato d'assedio in città è proseguito da sabato e non si è mai fermato. Ora dobbiamo, quindi non sappiamo quale sarà il dispositivo repressivo di sabato, ma sicuramente Anche qua dobbiamo rimarcare l'assoluta gravità della, della presa di posizione della Società di Pubblica Sicurezza, che chiaramente seguendo le indicazioni ministeriali, perché sappiamo insomma che anche nel pomeriggio di oggi si è tenuta una riunione specifica su tutta la questione legata a sabato e ai giorni precedenti, insomma a questi giorni di avvicinamento. Purtroppo c'è un grave atteggiamento, perché da quello che filtra, da quello che sappiamo, c'è l'intenzione da parte delle autorità di confermare anche alcune iniziative lanciate a livello provocatorio dai gruppi neofascisti, come il presidio di Forza Nuova di domani, e purtroppo, che è ancora molto grave, è che nonostante ieri si fosse riusciti a far annullare una conferenza stampa in un luogo privato di Stefano Casa Pound, ricordiamolo, oggi senza che insomma nessuno ne fosse a conoscenza, un dispiegamento di forze abnorme ha scortato un gruppuscolo di neofascisti, che ha permesso a Di Stefano di incontrare i giornalisti in piena Piazza della Libertà, la piazza centrale sotto la questura. L'ho accompagnato a salutare la barista, la proprietaria del bar, tutto questo permettendogli una sfilata senza alcun tipo di promedia, cioè di problema. C'è un articolo di un giornale locale che esordisce con vi porto un saluto romano generale. Questo è ve lo voglio raccontare per darvi un po' l'idea dei limiti dell'assurdo dell'inaudito che stiamo vivendo in questo momento nella nostra città. È chiaro che tutte le iniziative di dissuasione, di impedimento anche fisico che spontaneamente si produrranno, sono tutte tenute in considerazione. Stiamo monitorando tutta la situazione. Speriamo che insomma che si riesca in qualche modo ad evitare che gli episodi di quello di pomeriggio come quello di questo pomeriggio si ripetano. Ti volevo chiedere un attimo una cosa. Intanto, cioè, due domande. Cioè, intanto, qual è il clima che si respira in città, pure oltre insomma l'ambiente dei compagni, dico così, nei bar, nelle piazze, insomma l'aria che si respira lì, e poi ecco pure tra gli immigrati, cioè se ci sono delle realtà di immigrati che parteciperanno al corteo, se insomma ecco se c'è stata anche questa componente nel corteo di sabato. Sì, questa componente ci sarà, chiaramente si sta lavorando e sono ore, ecco, ci sono tutti passaggi che stanno costruendo e che hanno bisogno anche di tempo. Sì, comunque ci sarà, anche perché purtroppo è naturale che ci sia anche un po' purtroppo un clima di paura nelle comunità migranti, che stiamo comunque cercando anche nelle relazioni e nelle strutture associative di qualche modo di far superare. Chiaramente la Nocerata è una città di provincia che appunto è totalmente smarrita da tutto quanto sta accadendo, e anche dalla cannibalizzazione mediatica che i media stanno facendo in queste ore, ma al di là di questo dato, anche da un punto di vista della cittadinanza e del tessuto sociale, cioè, ci sono già grandi, insomma, gli stessi feedback che vediamo da tutte le città d'Italia, quindi ci sono buoni segnali. Adesso vi devo scusare ragazzi, che mi stanno attendendo a una riunione. No, ma infatti ti abbiamo rubato forse fin troppo tempo, ti ringraziamo. No, non vi preoccupate, poi magari siamo disponibili a sentirci. Ma guarda, ti comunico che forse già... Vai. Solo perché tu lo sappia, venerdì pomeriggio in un quartiere di Roma ci sarà un corteo che vuole proprio rilanciare appunto anche i temi che voi porterete in piazza a Macerata sabato. Bene, grandi. Ti ringraziamo allora, grazie per la disponibilità. Probabilmente magari proveremo a richiamarvi in questi giorni per fare un'analisi, magari anche comunque. Va bene, con più tranquillità. Grazie, e ci vediamo fisicamente sabato. Ciao, grazie. Ciao ragazzi, buonasera, ciao. Bene, 19:30, facciamo una pausa musicale e poi torneremo perché abbiamo un'altra corrispondenza, questa volta invece da Pavia.